Una manciata di secondi alle 7 spaccate, 7 rigorosamente del mattino. Riprende la diretta dagli studi di Rock FM, via Locatelli 1, 20124 Milano. Siamo qui pronti per affrontare una nuova settimana insieme, a denti stretti e testa bassa, come solo noi sappiamo fare. Amici, ma soprattutto amiche là fuori, Ariele è orgoglioso di augurarvi una buona giornata anche quest'oggi, lunedì 24 di settembre. Andiamo a cominciare la 16ª puntata di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Via Spadino! Il nostro regista, buona settimana anche a te, caro. A tutti voi là fuori, una strombazzata d'inizio, così. Pane, burro e rock'n'roll, che non fa mai male. La tua colazione rock, da una Milano ancora dentro le tenebre. Pane, burro e rock'n'roll, come faccio a saperlo? Beh, dal lampione crepuscolare che non si è ancora spento, no? Sto in una botte di ferro. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Che conviene, perché fa bene, pane, burro e rock and roll, la colazione che dà assuefazione. Se anche voi avete il microchip crepuscolare nel collo, tranquilli, tra pochissimo mi sa che ci si sveglia tutti, appena arrivano i primi raggi veri. Intanto guarda lì Spadino, che orgoglio, nella Milano ancora in penombra un signore che fa jogging, quanto ci mancava, eccolo lì dalla mia finestra. Buona giornata anche a te! Che voglia correre a quest'ora, bravo, orgoglio. Chissà se è un ascoltatore di Rock FM o no, ma è quello che torna indietro, è lui, eh? È tornato indietro, c'era nella scorsa stagione, grande. Abbiamo chiuso la scorsa settimana, una settimana piena di sorprese da pane, burro e rock and roll. Vedremo questa settimana che cosa ci si inventa tutti insieme, che la trasmissione, lo sapete, è nelle mani nostre, però il più delle volte è nelle vostre. Un saluto anche al buon Roberto Fricantoni, in ritardo, sapete, gli Eurostar. Come Mbembe che c'è? È fondamentale. Roberto Fricantoni è la colonna dorizia di questa trasmissione, la colonna portante, non le fondamenta. No, in realtà le fondamenta è la buona musica, e si inizia con gli Animals, It's My Life. Buona giornata! It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. So girl, go out. Wildlife, gli Animals. Sembra un ottimo manifesto per iniziare una nuova settimana. È la mia vita, faccio quello che voglio, penso quello che voglio, capito? Molto ribelle come messaggio, come d'altra parte solo noi di Rock FM sappiamo esserlo, eh? E anche giustamente i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Io vi ricorderei al volo, come faccio di consueto, il nostro numero di SMS, linea preferenziale per entrare in contatto con noi di Pane, Burro e Rock and Roll, per costruire insieme queste due ore di follia collettiva. Il numero, segnatevelo da qualche parte, anche lì sulla polvere del cruscotto, 335 100 7777. Mi farete notare, non tutti hanno la polvere sul cruscotto, io sì, quindi io segno tutti i numeri delle radio sul cruscotto. È vero, eh? Cioè il nome della radio e il numero di SMS sotto, che non si sa mai, tranne quello di Rock FM, che lo so a memoria, quindi non c'è bisogno di scriverlo. Vi ricordo anche una casella di posta elettronica, utile magari a coloro che ascoltano la trasmissione non in diretta, in differita, grazie al sito radiorockfm.com. La mail Ariel, come il mio nome, @radiorockfm.com. Avrei da salutare e ringraziare un sacco di radioascoltatori e radioascoltatrici che ho avuto il piacere di conoscere nuovamente nel weekend di DJ Set, ma lo farò con calma nel corso della trasmissione. Però è così, un saluto generico a tutti gli amici e le amiche che rimangono nascosti là fuori, ma vi taneremo prima o poi, cari ascoltatori passivi, come li chiamiamo noi dalle frequenze di Pane, Burro e Rock and Roll. Non abbiate paura, interagite anche voi con noi, siamo una squadra, insomma. Entrate anche voi a far parte della redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Non riesco a non dare attenzione all'omino che fa jogging, ragazzi, è tornato. E infatti vedo anche un SMS, è lui davvero? Allora è vivo e vegeto, grandiosa notizia. Grazie, ciao Filippo, che chiede gli auguri anche per sua figlia, 4 anni. Grande vittoria, tieni duro! È lui, ragazzi, è l'unico che può fare avanti e indietro. Perché in questi mesi poi ce ne sono stati altri che hanno fatto jogging, ma lui lo si riconosce perché arriva al semaforo e torna in re. Ah, fantastico. Tra l'altro non fa un grandissimo percorso, perché passa ogni tot, eh? Cioè nel corso della canzone passa almeno 3 volte. Se ripassa Spadino gli gridiamo dalla finestra dopo. Intanto si prosegue questo brano, voglio farlo attaccare io. Sapete come? Così. 1, 2, 3, 4! We'll be right back. detto lunedì mattina da passeare insieme, per fortuna che c'è pane, burro e rock and roll, e permettetemi di dirlo, per fortuna che c'è Roberto Fricantoni. Come ogni giorno, buona giornata! Buon lunedì a tutti voi, buon lunedì a lei DJ Ariele, buon lunedì a tutta la redazione di Pane, Burro, Rock and Roll a Spadino e al nostro impagabile, il caso di dirlo, impagabile e impagato stegista di redazione. Sarà una dura settimana, ma l'affronteremo insieme. Sì. Le va di partire con un bel almanacco dedicato al 24 settembre? Assolutamente no, e ma allora lo farò per voi. Partiamo dal lontanissimo 622. Grande la redazione di Pane, Burro, Rock and Roll. Perché ci fa sapere che il 24 settembre del 622, sì, Maometto completò la sua egira dalla Mecca a Medina. Fricantoni, mi dica subito cos'è l'egira. L'egira. Sì, e non cerchi di essere preciso, sì, perché in questi anni no, un po' di... Sì, no, no, è un argomento delicato, lo capisco. L'egira. Maometto, l'egira, l'Islam. Sì, beh, lei non ha la si più tratta... No, no, lo conosco perfettamente, sono un uomo dotato di una cultura mostruosa, lei lo ha spesso riconosciuto, e quindi per essere all'altezza della mia fama non le dirò che l'egira... Non battute stupide, la prego. No, l'egira si tratta di spostamenti continui in cinque. Circolo, lei sta dicendo una cretinata e non possiamo permettercelo, che la redazione intervenga immediatamente. Isacco, cos'è l'egira? Dunque, l'egira, hira in arabo, indica il trasferimento, la fuga o più propriamente la rottura dei vincoli tribali che esponeva a gravissimo rischio tutti coloro che qualsiasi sentito. Basta, grazie. Maledetto Saputello. Passerei alla seconda notizia di quest'oggi, sempre dedicata al 24 aprile. Quel ragazzo farà una brutta fine e passiamo Saputello. Al 1852. Che accade? Ah, nel 1852, il 24 settembre, venne mostrato in pubblico il primo dirigibile. Ah, una delle grandi invenzioni che Pane, Burro, Rock and Roll non si fa sfuggire. Le segnaliamo tutte quante. Passiamo al 24 settembre del 1890. Laddove la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ovvero? Ma c'è chi dice mormoni, i mormoni. C'è chi mormora, chi mormoreggia i mormoni. C'è chi mormora i mormoni. E non ce ne scappa una. Rinunciò ufficialmente alla poligamia. Peccato per i mormoni. Accidenti, proprio l'ultimo baluardo. Almeno loro. Senti, speravamo resistessero. Andiamo con un'ultima notizia, una grande ricorrenza per la musica italiana. Era il 24 settembre del 1958. Lo sai che avevo 4 anni? Sì, non me ne può interessare di meno. Era il 24 settembre del 1958. In una sala da ballo di Cremona, Natalina Otto e la moglie Flo Sandons, sì, scoprirono una cantante diciottenne di grande talento, con una voce molto interessante, sì, la quale poi diventerà famosa col nome di Mina. La grande Mina! Allora, che salutiamo. Venga qua, venga qua sul no, cerchietto, mi dica quale fu il primo nome di Mina. La tigre qualcosa. No, non la so. Quello fu il soprannome. Soprannome. Ma all'inizio si chiamava Baby Gate. Risposta esatta. Mi premio da solo. Grazie, molto bene. Molto gentile. Grazie. Lei non la sapeva, ma la perdono solo perché è il DJ Ariel. Thank you. lui è Carlos Santana con la sua chitarrina bollente in una samba patì, così alle 7:20 del mattino. Cosa chiedete di più per affrontare al meglio una nuova settimana? Qui ce la siamo ballata, dovremmo organizzare anche dei corsi di danza targati pane, burro e rock and roll. Non ho ancora ricordato che questa sarà, anzi lo è, una settimana particolare per noi del mattino di Rock FM, perché si avvicina a passi da gigante l'appuntamento sentitissimo di questa domenica a Milano, a Cascina Monlue. È ufficiale, ormai è andata, ve lo abbiamo promesso. È vero che siamo un po' marinai, quindi le promesse non sempre valgono, ma questa volta mi sa che manteniamo. Domenica questa presenteremo ufficialmente la patente da vero rocker, quindi alcuni di voi, i più fortunati, chi vorrà sfidare così la domenica sera, potranno tornarsene a casa se azzeccheranno i test attitudinali con la patente da vero rocker di pane, burro e rock and roll, che anche in terra toscana gli amici continuavano a chiedermi in questo weekend. Arriveremo anche da voi, come arriveremo in Liguria, come andremo anche dagli altri amici che hanno il buon gusto di sintonizzarsi su Rock FM. Qualche saluto veloce al Ciuffo, dice: guardate che non siete solo voi dei ribelli, non avrete mai sentito il nostro programma di domenica. Ciuffo, facci sapere assolutamente di che programma si tratta. Un saluto a uno studente, abbracciando lui, metaforicamente abbracciamo anche tutti gli altri, voi con le occhiaie grosse così e il vostro zaino troppo pesante sulle spalle. Un giorno dovremo aprire anche noi la polemica degli zaini troppo pesanti, eh? Io sono contro. Secondo me lo studente deve avere degli zaini pesantissimi. Io li ho sempre avuti, non vedo perché non li devono avere anche loro. Un bel il, eh? Te lo ricordi, Spadino? L'il. Ma non sai neanche cos'è l'il, Spadino, la sastava. Che palle, sto andando a scuola. L'anno scorso non mi sono perso una puntata, siete grandi. Ciao Mattia da Genova, proprio bisogno di una bella sveglia. Dovrei sgridarti però per la richiesta musicale che fai, e credo forse l'ora del mattino ti sei un po' confuso perché mi chiedi The Number of the One dei mitici Iron Maiden. Allora, caro Mattia, credo tu ti riferisca a The Number of the Beast degli Iron Maiden oppure a One dei Metallica. Probabilmente hai fatto un mashup di titoli. Comunque sai, in realtà non possiamo forzare la programmazione. Prima o poi gli Iron Maiden passeranno. Ho già dato un'occhiata, mi sa che in scaletta invece un Metallica c'è. Sì, eccolo lì, quindi resta lì, portati le cuffie anche in classe, dai, così ti teniamo compagnia anche lì. Ultimo saluto, e questo con doppia strombazzata, orgoglio dei nostri radioascoltatori, si firma Andrea, sentite cosa scrive: a 41 anni e una figlia venerdì, questo è un neopapà, grande, mi sono comprato l'ennesima chitarra elettrica. A meno che venerdì sia la data di acquisto della chitarra elettrica, forse è così, hai ragione. La figlia ce l'aveva già, va bene. Comunque complimenti Andrea. E dice: credo che il rock sia veramente uno stato d'animo. Con voi la giornata assume un'altra piega. Caro Andrea, è con te che la nostra giornata assume un'altra piega. Grazie! Evviva chi si compra le chitarre elettriche! Si chiama David Bowie. E questa è Gin Genie. All right. Pigliate il ritmo giusto di questa mattina. Small Jean Genie snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Gin Genie lives on his back. The Gin Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. The Gin Genie, let yourself go. Oh.